Yeah, Six. Freestyle Carnage EP volume 2. Fuori cartina, la chiudi e si gira. Per i miei neuroni tu sei la sua regina. Mi sveglio ogni mattina ma non basta più. Sostanzialmente sei come per un adolescente Facebook. Alla mia destra vedo Buddha che beve, a sinistra Gesù con la canna nel bicchiere. Questa è la crew che mi accompagna tutte le sere. Spaccia hashish nel quartiere di Havane. Poi nel locale via serata criminale. Non mi ritrovo con la gente che vomita e sta male. Bisogna sapersi controllare, è la scusa che usano per non smettere di fumare. Tu hai le canne mozze, io le canne grosse. Tu uccidi a sangue freddo, io l'ammazzo con il clipper. Senti l'accento, Toscana, Italia. Sto parlando di chi per uccidersi addirittura paga. In bosco all'aeroporto, tutto ho fatto, me ne scordo. Non la trovo, cazzo che pacco. Strafatto, chiamami scappellaio matto. Mela in bosco all'aeroporto, tutto ho fatto, me ne scordo. Non la trovo, cazzo che pacco. Strafatto, chiamami scappellaio matto. Tutto fa male, non bere né fumare. Attento a ciò che dici o ti aggiunge la postale su WhatsApp. Poi su Ask ti notifica. Ti svegli sotto casa e già la polizia. Abemus papa, abemus porrata. Perla di saggezza dettata da Sebastian. Sedicenni che sembrano già in età avanzata, che se la tirano ma non si sa per cosa. Six, di cosa parli in questa canzone? Parli in relazione alle persone che fanno il tuo nome. Qualcosa di simile, zio, chi deve capire l'ha capito. Scusate ma sono stordito. Adesso basta, Bukowski, passa la vodka. Gesù Rollane un'altra, ma fa la bella pesa. Buddha, tuo occhio la birra, mettiti a dieta. E raga, eccomi, ci sono io, ho portato la cheta. Mela in bosco all'aeroporto, tutto ho fatto, me ne scordo. Non la trovo, cazzo che pacco. Strafatto, chiamami scappellaio matto. Mela in bosco all'aeroporto, tutto ho fatto, me ne scordo. Non la trovo, cazzo che pacco. Strafatto, chiamami scappellaio matto. Scappellaio matto.